andiamo in doppia sigla. Attenzione, la sovrapposizione, perché c'è cellulite e celluloide in apertura di trasmissione. Saluto Gabriele Niola, come stai, Gab? Tutto bene. Oh, come sei frizzante oggi, sei pimpante. Ma è la doppia sigla. Bravo, la doppia sigla è come l'adrenalina per noi. Poi, sì, esatto, esattamente così. Poi gli ascolti, quando andiamo in doppia sigla, si moltiplicano. Schizzano. Ma come hai presente una slavina, una valanga, cresce, migliaia, decine di migliaia, centinaia, milioni. Fantastico. Comunque, il nostro Gabriele mi sembrava un fantasma, invece era Elisabetta. Vabbè, sì. Allora Gabriele, qui dobbiamo parlarci chiaro e chiari e limpidi. Io ho già fatto un esposto alla magistratura, una alla Corte dei Conti, ai Carabinieri, Guardia di Finanza, a tutti quanti. Ci stanno fregando l'idea di 007, Gabriele. Io te lo dico. Come possiamo fare? Cosa possiamo fare? Mi chiedo io. Chiamiamo la Broccoli. La chiami tu? Ci penso io, ho il telefono diretto. Oh, finalmente. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un reality che, ma avrà avuto l'approvazione della famiglia Broccoli, sta cosa? Per forza, se no non possono fare niente. Ah sì, Forza. Sì. Ah, certo. Secondo me si stanno avvicinando alla serie Young James Bond, Gabriele. Io te lo dico. Ci arriveranno anche loro, no? Cioè, non è così difficile. Beh, ho capito, però l'idea di chi è? È nostra. Lo so. Ma noi possiamo accampare qualche sorta di diritto? Pur non avendo. Sicuramente, guarda, sicuro. Pur non avendo alcun diritto, però abbiamo avuto l'idea. Cavolo, che è poco? A questo punto io direi di fare un colpo di mano, cioè. Rovesciamo il tavolo, mischiamo le carte, sparigliamo le carte e ci inventiamo un'altra cosa. Tu te lo ricordi? Attenzione. Questa è un'idea che nessuno poteva prevedere. Fermo. Tu lo ricordi? Anche i nani hanno cominciato da piccoli? Certo. Il film meraviglioso. Film bellissimo. Noi facciamo il remake. Ok. Vabbè, allora io già intravedo un problema, te lo dico. Qual è? Cioè, all'epoca quel film causò un casino pazzesco perché accusarono Werner Herzog di aver sfruttato i nani per poter fare. Pensa oggi! Cioè. Io ho l'asso nella manica, però. Allora, il film è più. Faremo più o meno così, però più moderno, con cose diverse, eccetera. Ma. Diamo ai nani superpoteri. Guarda, ti dico, vinceremo su tutto perché il superpotere dei nani che avranno i nani è quello che come gli fai qualcosa, gli dai fastidio, li importuni, diventano alti 3 metri. Diventano altissimi e fortissimi e la loro criptonite, che ne so, è un piatto di rigatoni con i broccoletti, cioè se tu gli tiri un piatto di ripassati, un po' di peperoncino, esatto, se tu gli tiri quelli ritornano piccoli, però è difficile perché chi è che fa i rigatoni e i broccoletti solo in Italia, mentre noi lì lo mettiamo in Italia. No, se no non c'è minaccia, non c'è la minaccia. No, ma quello lo scopriranno dopo. Cioè, se lo fai in America, per puro caso, uno che sta lì nella trattoria, sta mangiando in una trattoria romana, piatto napoletano siciliano, piatto di broccoletti. Quello è altissimo, sta facendo a botte con qualcuno, dà una manata a quello che sta mangiando il piatto, gli va un po' di rigatone col broccoletto sul braccio e quello. Ritorna piccolissimo. Non è facile poi scrivere altre situazioni in cui per errore un broccoletto alla romana ti entra in bocca. Cioè, non è semplice. No, non deve entrare in bocca, basta che ti tocchi, è come l'allergia. Ok. No, perché questo si scopre dopo un bel po'. Cioè, la loro criptonite è quella, ma si scopre a metà del film. Quindi loro, cioè, dovranno combattere e evitare i rigatoni con i broccoletti, oppure, che ne so, i rigatoni con la pagliata. Difficilissimo. Beh, certo, è difficile, perché oggi come oggi è un problema. E possiamo farci anche le serie. Ci facciamo anche le serie. Facciamo un sacco. Ma no, io ti do di più. Ci puoi fare anche i programmi di cucina. Grande idea, grandissima idea. E vedi, non avremmo più problemi di sorta con nessuno, perché i nani diventano altissimi. Quindi un'allegoria sul conflitto nel mondo di quelli che sono alti normale contro le minoranze etniche, quindi avvalora il nostro film, cioè aiutiamo le minoranze, eccetera, eccetera, vedi? Parità uguale per tutti. Anche un premio. Vinciamo il premio Pulitzer, ma anche il premio, che ne so, Venezia. Dimmi un festival impegnato, di quelli impegnati. Quale vuoi? Locarno. Ecco, andiamo a Locarno, al festival di Locarno, prenderemo fiumi di premi, e anche a Zurigo, il festival di Zurigo andremo, perché bisogna andarci a Zurigo. Vabbè. Non c'è nessuno se non va a Zurigo. Certo. Comunque, il discorso qual è, caro Gabriele? Ci hanno fregato 007, stanno fregando un sacco di altre cose, e le serie TV stanno andando a rotoli. Io lo dico da una vita. Sì. Non si può dire che io non l'avessi detto. Hai ragione. A parte Lupin, che è uscito ieri sera, stanotte ne ho visto una mezza puntata, mi sembra figo. Perché le serie TV stanno andando a rotoli? Te lo dico. Allora, la ragione c'è, cioè non è neanche troppo complicata. Vediamo se è quella che penso io. Dai. Per dire perché sono andate a rotoli, bisogna prima dire perché sono state fighe. Ok. Allora, la ragione è che a un certo punto alcuni canali televisivi americani, tipo HBO, negli inizio degli anni 2000, avevano bisogno di fare cassa, cioè di prendere gente che li pagasse, canali per un canale a pagamento. E l'idea che avevano avuto era di dare alle persone quello che il cinema non gli dava, cioè dei contenuti estremi, duri, antieri, roba che non si vedesse da nessuna parte. Questa roba ha dato il vita a, non so, i Soprano, a queste serie qua storiche, che hanno cambiato molto di quello che sappiamo riguardo le serie TV, e del resto da lì in poi tutti hanno imitato i Soprano, The Wire, Breaking Bad, Il Trono di Spade, House of Cards, personaggi duri, storie cattive, cose mai viste prima. A un certo punto questi, che anche la piattaforma hanno fatto la stessa cosa. A un certo punto, più o meno intorno al 2016-2017, più o meno, le piattaforme e i canali sono arrivati al massimo delle persone di quelle che hanno quei gusti, quantomeno, che potevano prendere. Basta, hanno smesso di crescere. Per continuare a crescere dovevano prendere tutti gli altri, che sono persone a cui non interessa, cioè, la violenza, i contenuti duri, sofisticati, ma sono il pubblico delle reti generaliste. E quindi hanno cominciato a fare cose che potessero piacere a loro. Chi ha visto tutto quanto Il Trono di Spade, che è iniziato più o meno nel 2000, mi sembra 10, una cosa del genere, insomma, intorno al 2010, ed è finito nel 2017, più o meno, ha visto la totale trasformazione di una serie che era iniziata vicina al soft porno, praticamente, nell'ultima stagione, una roba da educande, completamente cambiato, snaturato, perché era cambiato il pubblico che andava preso. E ad oggi io sono stato, questo mi sembra che l'avevamo detto, io sono stato alla presentazione del palinsesto di Netflix della prossima stagione di Netflix Italia, della prossima stagione, ed è la Rai. Cioè, quel tipo di produzione là, perché vogliono quel pubblico, e quindi gli devono dare quello che quel pubblico vuole. Certo, ma non credi che, poi ti dico la mia su questo, non credi che oramai la televisione generalista abbia fatto il suo tempo? Perché anche le persone di una... intendi la Rai, Mediaset, eccetera, sì, eccetera. Sì, perché anche le persone di una certa età oramai con i televisori con la Fire Stick, oppure i televisori quelli multimediali, insomma, quelli con, dove dentro c'è internet, cioè ci sono tutti i canali, vanno a vedersi quella roba lì. Hanno mollato, secondo me, le TV generaliste. Ma in realtà gli ascolti non dicono questo. Ora io non so spiegarlo, perché credo che poi ci siano ampie fasce di popolazione, cioè, credo che noi tendiamo a sovrastimare le persone come noi, ecco, che ci siano molte persone che per l'appunto si stufano di certe cose e si vanno a cercare qualcosa di più particolare, qualcosa, perché alla fine i numeri purtroppo non lo dicono, dicono purtroppo perché a me mi piace più quello che facevamo prima, ecco. Però voglio dirti un'altra cosa. Secondo me il fallimento delle serie è che hanno ridotto le puntate e fanno una serie che ha solamente una storia, mentre fino a qualche anno fa facevano 25, 26 puntate, ogni puntata veniva chiusa e ne iniziava un'altra, erano dei mini film, quindi erano più avvincenti, cioè lo spettatore, perlomeno quello che accade a me, era più portato a vedere un'altra puntata senza dover fare la fine, oddio no, è finita, bisogna che devo vedere l'altra per forza perché non so come va a finire, cioè chiusa una, poi posso vederne un'altra tra un po', capito? Ecco secondo me perché pure le serie sono un po' crollate, cioè stanno andando a carte 48, perché fanno queste serie da 6 puntate, 3 puntate, guarda quello che stanno facendo adesso con che cos'è, John Wick, 3 puntate. Tre puntate. Sì, sì, Gabriele, cioè, questo pure ha una motivazione nel pubblico, perché le piattaforme hanno scoperto che più che la stagione, cioè che la cosa che tira di più è la novità. Quindi se io faccio una serie da 20 puntate, ma anche da 15 puntate, faccio meno ascolti che se faccio 3 serie da 5 puntate. Perché la novità tira di più. Beh, però secondo me non è così, perché fino a 2-3 anni fa andava a rotta di collo quella roba lì ed era super vista. Prendi Suits adesso l'hanno rimessa nelle piattaforme ed è la serie più vista in assoluto, ed è una serie vecchia. Certo, vero, assolutamente. Quella assolutamente. È una serie che ha 9 stagioni, se non sbaglio, con 25-26 puntate ogni stagione, eppure eccolo là, sta facendo dei numeri pazzeschi. E io sono un fautore di Suits perché la conosco fin dalle origini, l'ho vista proprio quando usciva. Sì, no, è vero, poi ci sono, ma era capitato prima anche con The Office o con How I Met Your Mother, ma anche Friends, ci sono delle serie che sono, come dire, una garanzia. Però lo stesso, loro per la produzione nuova preferiscono questa cosa qua. Preferiscono più cose e meno episodi. Allora, Giova, che salutiamo, che ci segue sempre, faranno il prequel di Romanzo Criminale e Gomorra. Vero. Afferma. Sta cosa. Vero, verissimo. Sky ha annunciato questi prequel. Cavolo. Beh, figo. Anche, devo dire, poi non ho capito esattamente come saranno, però sì, vogliono sfruttare anche loro la proprietà intellettuale. Beh, cavolo, fighissima. Beh, ci vorrà un annetto però, Beh sì, sicuramente. Tra l'altro, allora ti dico questo, sai che ogni tanto io mischio le carte, chiudo una piattaforma, ne faccio abbonamento a un'altra per non spendere troppi miliardi. Avevo beccato un'offerta su Sky, su Now TV, fai offerta 7,50 euro per 3 mesi e ti dava sia serie che cinema. Il giorno dopo vado lì, la faccio, vado per farla, sparita, 9,90 le serie e 9,90 i film. Hai perso l'occasione. Costa... Cioè, credo che Now TV sia quella che costi di più in assoluto. Beh, perché hai anche, comunque con Now TV hai anche i canali, Cioè è una cosa che gli altri non hanno. No, che canali io? Sì, c'hai anche la, come dire, la TV on demand. Cioè non so, in on demand, la TV in onda, non so come dire. Ah sì, beh vabbè, cioè, che ci fai? Lo so, però quello c'ha un costo chiaramente. Guarda che un sacco di persone lo zapping comunque è una roba che vogliono. Ma allora, comunque, cioè, non l'ho fatta, avevo già ho dismesso Netflix, perché adesso ho ancora un po' di giorni, perché l'ho dismessa qualche giorno fa, e adesso mi sa che riattivo Netflix, mo vediamo. Ma costa una fracca dei soldi, ma sono matti, ma chi... Ma io vado da Superdino e vado su Telegram alla grande e risolvo il problema. Lo dici per scherzare, non lo faresti mai. Sì, no, sono battute queste, no, Gabriele? Iperboli, esagero. Sì, sì, paradossi, veramente paradossi, che cavolo. Comunque, vabbè. come quando uno dice mo esco e faccio una strage. Sì, no, non mi rompe scatole, guarda che te rompo la macchina, così queste stupidaggini, esatto. Qui, guarda che parto e non torno più. No, comunque partiamo dai film, cioè arriviamo ai film. L'esorcista. Allora, questo è un problema, nel senso che innanzitutto io un pochino l'hai visto, sì? Sì, sì, certo. Ma sai, il problema fosse che non l'avevo visto. No, infatti sì, mi preoccupavo. No, allora, l'esorcista viene da David Gordon Green, che ha fatto la nuova trilogia di Halloween. Quindi è uno, diciamo, che ha esperienza in riportare in vita questi grandi vecchi film di successo. Questa trilogia di Halloween nuova è andata abbastanza bene. Non era malaccio, non era eccezionale, ma non era neanche malaccio. Ora, invece, quello che è successo è che questo esorcista, io l'ho visto, è proprio mostro. Cioè, non è che sia brutto, non fa le cose che fa l'esorcista, non vuole fare paura, non vuole, cioè ci sono storie di possessione, ma il punto è che non è né carne né pesce, ecco, vorrebbe essere un film con qualcosa di serio da dire, ma non lo fa sufficientemente bene per compensare il fatto che poi non fa paura, non sciocca, poi il punto dell'esorcista è che scioccava, che però è un po' la storia di tutti i sequel dell'esorcista. Avete visto qualche sequel dell'esorcista? Ce ne sono tre almeno. L'esorcista 2, esatto. L'eretico, esatto, c'è una scena bellissima, ma è un film dimenticabile. E sono tutti così, cioè sono dei film che non fanno quella cosa dell'esorcista, vogliono tutti fare qualcos'altro, forse per non confrontarsi col mito. Chiaramente, però poi alla fine deludenti, c'è poco da fare. Allora, ti dico questo, io. Questo esorcista sarà una trilogia, scrive Giovanni, sì, sarà una trilogia. Sì, sarà una trilogia, anche questo come già Halloween. Allora, io, quell'anno lì dell'esorcista, io c'ero... Il 1973. Esatto, io c'ero. Tu c'eri in sala? In sala. Eravamo io e altri amichetti miei. Sì. La cosa che io ho letto, perché chiaramente posso solo che aver letto della gente che vomitava e usciva, queste cose qua. Non è cioè, allora. Non è vero, tu puoi solo parlare per le proiezioni a cui sei stato. Certo, siamo stati a quelle dopo credo un mese, siamo andati dopo un mesetto, eccetera. Siamo entrati e tutti che ridevano, perché si era sparsa la voce che faceva paura, no? Andiamo sì. A vedere, c'è sta alzata, una cosa, eccetera. E inizia il film, tutti zitti, mi sembra che già all'epoca si entrasse solamente prima del film, non ricordo, sai che mi sa che all'epoca si entrava o per quel film facevano entrare solo all'inizio del film, non facevano entrare, e mi sa che proprio da là che è scattata la molla dell'andare al cinema. Non a metà film o entro quando. No, in realtà quella roba lì l'ha fatta partire Psycho, perché c'era l'obbligo agli esercenti di far entrare la gente solamente dall'inizio, sennò non che anno entrare. Che anno era? No, Psycho era molto più indietro, dagli anni 60 ancora. Però no, aspetta, però negli anni fine anni 60 ancora si entrava così, come capita. No, ma infatti diciamo che una cosa che l'ha fatta partire Psycho, però poi perché tutto quanto si adeguassero c'è voluto del tempo, però il primo è stato quello. E se non sbaglio su L'Esorcista fecero questa cosa, ma potrei sbagliare. Inizia il film, cioè inizia il titolo di testa, eccetera, e da dietro si sente una voce che a certo a Roma, figure. Sente uno il problema è quello, non è il film, è Roma. Aspetta, sente forte L'Esorcista, tutti a ridere. Inizia il film e dopo un po' nessuno rideva più. Vedi che ha funzionato. Nessuno rideva più, Gabriele. Io ho visto, a parte che io me la sono fatta sotto, te lo dico, ero piccolo, me la sono fatta sotto, cioè ho avuto un'infanzia infelice, come tutti quelli che hanno visto L'Esorcista, infanzia infelice. La gente usciva veramente. Era vero che se ne andavano e scappavano. Qualcuno si alzava e se ne andava, ma non è volata più una mosca. Io invece posso dire una cosa, che nel 2000, nell'anno 2000, fecero una riedizione dell'Esorcista con delle scene aggiunte, che la, una delle scene famose aggiunte è quella di lei che cammina al contrario come un ragno, e lo rimisero al cinema, chiamato L'Esorcista versione integrale, che era appunto quello lì più il solito, più 12 minuti. Io andai a vederlo lì per la prima volta, andai al cinema nel 2000 a vederlo. Ah, non l'avevi mai visto? No, io avevo, nel 2000 avevo 20 anni, ah, ah. Non l'avevo mai visto. Okay. Non è che lo mandino tutti i giorni in televisione. Come sei giovane? Lo so. E finì tutti a ride, purtroppo. Però lì non ci fu che poi dopo si cagarono sotto. Tutti a ride. Sì. Lì è difficile poi, come dire, per te trovare la concentrazione di nuovo. Cioè, alla fine finisce a ridere. Però nel 2000 già il mondo era più scafato. Sì, nel esatto, 73 mi ha dato l'impresa. Io poi l'ho rivisto anche recentemente. Oggi è proprio, siamo abituati ad altre cose. È uno di quei film che oggi non regge come prima, quantomeno. È un bel film, ma non mette paura. All'epoca metteva paura, perché negli anni 70 chi c'era? Spaghetti western, poliziotteschi, mi sembra che già ci fosse stato Lo Squalo, o sbaglio, già c'era stato Lo Squalo, Lo Squalo anni 80. No, Lo Squalo doveva venire, come doveva venire pure Dario Argento, c'erano i film di Mario Bava, però chiaramente pure quelli non è che mettessero no, pochissima. Ma chi li andava a vedere i film di Mario Bava? A parte che andavano nelle sale, ecco, quelle sotto casa mia, noi andavamo di pomeriggio per vedere, che ne so, una chiappa, per vedere una sisa, capito? Queste cose qua. Beh, ma cioè la situazione ha cresciato, perché quel, secondo il mio punto di vista, perché quel tipo di film di paura non era stato mai visto, e tantissime persone, cioè, si sono spaventate veramente, ma te lo dico perché poi amici di mia madre, mio padre, cioè, gente terrorizzata che è scappata, è uscita, ma è cose vere. Ma anche perché io ho capito che aveva attirato un pubblico che non era il pubblico degli horror, quindi credo che poi uno si mette paura. No, ci andavano tutti, cioè nel cinema ci andavano tutti. Poi dopo col passaparola si era capito che sta cosa era una cosa tremenda. Tremenda, ma veramente tremenda. E metteva paura, perché c'era un modo diverso di andare al cinema e di vedere, c'erano altri tipi di film, quella cosa lì non era mai stata fatta, certo, capito? Quindi la testa delle persone dice, mo che è sta cosa di quella che vomita, che si alza, e siamo matti. Per cui vabbè, questo, insomma, non ti è piaciuto l'esorcista? No, il credente non funziona, non c'è niente da fare, purtroppo non funziona. Altre cose che hai visto? Altre cose che ho visto il terribile, mamma mia, bruttissimo, L'imprevedibile viaggio di Harold Fry, che è praticamente... Ma che... Sì, è un film su questa persona, quest'uomo anziano, che riceve la notizia che una sua amica in un'altra città dell'Inghilterra ha il cancro, quindi sta morendo. Oh, e a un certo punto decide che andrà da lei a piedi, cioè che attraverserà l'Inghilterra a piedi per andare da lei, e che... fino a che lui camminerà, lei non potrà morire, rimarrà in vita. E in questo viaggio, una specie di viaggio tipo Forrest Gump, che poi la gente lo segue, tutto molto spirituale, capito? Sole che passa attraverso le nuvole, queste cose così. Terribile, di un buonismo insopportabile, soprattutto perché abbiamo cominciato la puntata parlando di Werner Herzog. Questa cosa qua, nel 1974, Werner Herzog l'ha fatta sul serio. Cioè, nel 1974 lui, Werner Herzog, viveva a Monaco, in Germania, e una famosa critica tedesca, che però viveva a Parigi, si era gravemente ammalata, e lui disse che sarebbe andato da Monaco a Parigi a piedi d'inverno nel 74 per evitare che lei morisse, come forma di, come atto di coraggio. D'amore. L'ha fatto per davvero? Ha fatto, c'è un libro, perché lui ha tenuto un diario in quei giorni, quindi c'è un libro che si chiama Sentieri di Ghiaccio, che lo racconta giorno per giorno. Io l'ho letto, è una cosa incredibile, chiaramente. E questa non è morta, cioè è morta tipo 12 anni dopo questa, poi. Madonna. Però quella è una roba che non ha neanche un briciolo di spiritualismo, anzi è una roba di uomo e natura, una roba veramente materiale. Invece questa è una roba buonista, terribile. Porca miseria. Hai capito, Werner Herzog? Bello. Lo sai che non stava bene lui comunque. Lo sai che quando lo accusarono di aver sfruttato i nani per anche i nani hanno iniziato da piccoli, lui chiaramente non riteneva fosse vero e trovava indicibile questo fatto che lo accusasse di questa cosa. Per compensare disse: bene, io mangerò una scarpa. E c'è questo video, si trova su YouTube, Werner Herzog Eats His Shoe, in cui lui bolle, prima fa bollire e poi mangia una scarpa. Ma non, cioè, ma non una ballerina da donna, uno scarpone da uomo. Credo che levi solamente la suola in gomma, che non si può, e i lacci, quindi si mangia più dalla parte in cuoio, non lo so. Comunque stavo vedendo una notizia a proposito di Suiz, che in effetti Suiz infrange l'ultimo impensabile record come serie TV più vista in streaming. Ma una cosa pazzesca, che è uscito, sarà uscito 10 anni fa Suiz, adesso non ricordo, ma è uscito veramente una vita fa, vedi? Sì, sì, almeno 10 anni fa, sì. Quando una serie è fatta bene, cavolo, viene fuori, Gabriele, viene 20, 26 puntate, andiamo, dai, cavolo, Porco cane, oh. Rifate ste serie belle, lunghe, che cavolo, da 55 minuti veri, non da 38. Cioè, la controriforma. Sì, no, dai, c'è cioè, il riassunto della puntata precedente, 5 minuti, la sigla iniziale, la sigla finale, alla fine diventa 35 minuti, ma dai, mamma mia. Comunque, film belli questa settimana almeno no, ce ne sono. No, un disastro. Cioè, esce anche Nata per te, che è un film italiano che racconta la storia vera di quest'uomo che pochi anni fa è riuscito, una persona omosessuale che è riuscita ad adottare una neonata, che è una pratica molto complicata in questo caso, cioè che una persona single adotti una neonata, tra l'altro una neonata affetta da sindrome di Down, quindi anche un'adozione complicata. Ha fatto giurisprudenza, è stato un caso importantissimo, che è stata la prima volta e come dire, adesso è c'è un precedente, esiste, quindi insomma, è una cosa molto importante. Il film è noiosissimo, è una cosa terribile il film. Addirittura. Mi ha veramente distrutto, sì. Ecco. Questo protagonista con un'espressione indecifrabile per tutto, è tutto il tempo perplesso, per tutto il tempo. Poi ci sono dei metaforoni che mi hanno squassato l'anima. No, veramente no, cioè no, veramente non è giusto che io venga sottoposto a queste cose. Povero, come io ho dovuto sentire. Allora, ti dico, non ascoltare il disco di Roger Waters. Lascia. Guarda, sono 2 settimane che ne parli, io ho il terrore, vedo le immagini, vedo le pubblicità, no, ma ho il terrore. Gabriele, lascia perdere. Ma mi sa che io mi ero sentito l'altra volta alla trasmissione per sentirmi il discone de cosi, mo te dico il titolo, il discone dei Gimini. Bear Ghost sono loro, Gimini è il titolo dell'album. Sì. E mi sa che a un certo punto l'hai messo, cos'era, Breeze l'hai messo, sì, no? Del genere. Sì, sì. Madonna santa! Ma come ti viene? Guarda, è un. Io veramente non capisco perché facciano queste cose. Ma vado a controllare quanti anni c'ha, perché alle volte è l'età. 83, volte... 84, ma al di là di quello. Ci sta comunque l'età, cioè, questa è l'età in cui si sbarella, è questa. Ma ho capito, qualunque cosa va bene, ma tu puoi mettere una. Secondo me. Allora, guarda, non lo so. Secondo me è una batteria finta quella, perché ha lo stesso timbro, lo stesso colpo per tutto il disco. E lo stesso beat. Tu, ta, tu, tu. Lo stesso 4/4 e lo stesso colpo, quindi non sgarra niente, quindi secondo me è una batteria o fatta con la I o fatta col campionatore o con qualche macchinetta eccetera, ma è arrangiato malissimo. Lui che c'ha la voce che soffia invece di cantare, proprio così. Santa pace, cioè pure stiamo parlando di Roger Waters. Quando alcuni, quando diventano vecchi, fanno dei film che tu dici, ma cos'è, hai disimparato? Cioè, cos'è possibile? Un film di un incapace, questo è. Una cosa tremenda, Gabriele, una cosa veramente tremenda che io. Già dai singoli che tirarono fuori due settimane fa mi era preso un colpo, mi ho detto ma come è possibile una cosa del genere, come può, che poi qualcuno dice l'ha fatto per ripicca contro Gilmour, ma cioè, a parte che non lo sappiamo, perché il casino che hanno tra loro due lo sanno solo loro due, perché c'è chi dice: ah no, io lo so perché non l'ha staccato. Non lo sappiamo. Lo so io. Ah, lo sai tu, ecco. Perché Gilmour fa la carbonara con la pancetta e Waters la fa col guanciale. Esatto. Questa cosa è intollerabile, chiaramente. Non lo sappiamo. Secondo me, poi tra l'altro i Pink Floyd hanno tirato fuori un cofanetto mostruoso qualche giorno fa che costa 300-400 euro con una cosa rimasterizzata in 5.1 in altissima qualità. Cofanetto in che supporto? Tutti, DVD, Blu-ray, CD, vinile, hanno fatto come si chiama, scusa, il vinile quanto costa? The Dark Side of the Moon anniversary, 50° anniversario, costa 400 euro circa. Ma cioè si può comprare, nel senso, oppure si è esaurito? Certo, no, c'è, credo ci sia ancora, figura di se esaurisce le cose, quelli quando fanno quando tirano fuori le cose ne fanno, cercalo un attimo. Madonna, 280. È sceso pure. 280, sì. Sceso pure. 2 LP. No. Guarda, che roba, però 280 perché ti devi comprare tutto, cioè il vinile, i due CD, il Blu-ray, il DVD, io devo solo il vinile. Credo che esista anche solo il vinile, Vediamo un po'. Credo che esista anche solo il vinile. Per lui c'hai credo il 7.1, poi hai qualità audio stratosferica. Tutto rimasterizzato, io poi non l'ho ascoltato, quindi non so se valga la pena o meno. Certo, io 300 euro, 250 euro, ma mai nella vita. Ho tre versioni di Dark Side of the Moon. Ho l'originale, quello che comprai a me. Basta. Allora, questo è il 50° anniversario, quindi è giusto. Sì, questa uscita adesso. No, ma questo è il live at Wembley, non è. No. Devi prendere il No, perché avevo trovato una cosa, ma non è quella giusta. Non è quella. Vabbè, mo mi metterò a cercarlo. Costa qua 300-400 euro, ma è un cofanone mostruoso, veramente mostruoso. Ma io voglio solo vinile, capito? Questo voglio. Credo che esista solamente vinile. Quello che ti dicevo, cioè, non è che lui da questo cofanetto non prenda le royalties. Cioè, se le prende Roger Waters, capito? Non è che dice ce l'ho con loro perché non mi danno a stecca sulle royalties. Allora, comunque, ecco, l'ho trovato, 22 euro solo, vinile, 50° anniversario, quello lì. Sei sicuro? Mi sembra poco, Su Amazon, 50° anniversario, vinile, 22 euro, 2023 remaster. Ma 180 questo. Grammi? Ma devo far scritto, non cerco. Adesso 180 grammi. 506 grammi. Ma che 506 grammi? Non esiste. Così, giuro, 506 grammi non esiste. Non esiste. Massimo 200 grammi. Esiste. Ti giuro che è scritto 506 grammi. 500 grammi danno una pietra. Cioè, mezzo chilo. No, non è possibile. Un sasso. Mi informerò. Oh, ti segnalo, tra le tante cose, prossimamente uscirà un disco di Joe Jackson, che tu sai io sono uno che lo ama e ritengo sia uno degli artisti più sottovalutati della storia della musica, perché lui ha fatto tutti i generi di musica in maniera geniale. Esce un disco omaggio a Max Champion, parliamo di un artista del 1900 addirittura. Sono stati ritrovati questi manoscritti, insomma questi pentagrammi, e lui ha rielaborato tutta, insomma, una storia pazzesca. Poi ti segnalo una Alison Miller, che è una batterista bravissima. Ma insomma, perché ti devo dire queste cose? Ascolta la trasmissione. Ascolta, mi sono beccato Roger Waters l'altra volta. Ascolta la trasmissione, ascoltala in diretta, perché è la diretta, la cosa buona è la diretta, dai. Il resto non vale niente. No, poi ci sono i Lake, c'è un sacco di roba. Mary Latimore, che è un'arpista meravigliosa. Insomma, vabbè, poi se vuoi la senti, se no ciao. Se no fate fatti tu, se no mi compro 506 grammi dei Pink Floyd. Senti, altri film? Niente? Allora, no, c'è un film carino. Allora, uno, per fortuna, carino, esce. Oh. Che esce su Prime Video, si chiama Totally Killer, ed è un film che Allora, è un film scemotto, però è fatto con consapevolezza, quindi va benissimo vederlo. Inizia come il classico slasher, cioè adolescente a scuola e c'è uno che pugnala la gente, no? Così inizia. Poi a un certo punto, a totale sorpresa, la mamma della protagonista viene pugnalata, ma subito, viene pugnalata. E tu dici, porca miseria, non me l'aspettavo. E senza che fosse stata introdotta questa cosa, lei va da un'amica e dice, porca miseria, hanno pugnalato mia madre. E l'amica dice, possiamo fare una cosa, io ho appena inventato una macchina per tornare indietro nel tempo, tornare indietro nel tempo, ma agli anni 80, tipo Ritorno al futuro, in cui lei incontra i genitori giovani, perché il killer era attivo anche negli anni 80 e quindi lì può bloccarlo all'inizio. Allora, questa cosa devo dire mi ha subito interessato, perché mescola queste due cose che sembrano non c'entrare niente. Il film è divertente, è fatto con molta ironia e soprattutto c'è una cosa che ho molto apprezzato. Solitamente quando si torna indietro nel tempo gli anni 80, gli anni 90, c'è sempre un po' di nostalgia, no? Anche Ritorno al futuro era così, tornava negli anni 50 lui e c'era molta nostalgia, le cose erano meglio negli anni 50. Qui invece la città fanno schifo, cioè c'è molto il confronto, per esempio lei che viene dal tempo moderno, una ragazza del tempo moderno, quando le persone negli anni 80 prendono in giro uno perché è gay, a lei dice, oh, ma come, non si può, ma no, non mica si fa così, o che ne so, se bullizzano qualcuno, lei è tipo, no, questa roba non si può fare, però non è lei quella scema, sono loro, cioè alla fine tu capisci anche il senso del film, chi sarà l'assassino, che cos'è, è proprio figlio di quella mentalità là che genera mostri e genera violenza, quindi non c'è niente di nostalgico. Quella è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sempre questa cosa del ritorno di Daniel al tempo, non so se l'hai visto, 57 secondi. Oddio, mi suona. Qual era? È molto carino, molto carino, molto carino. Guardatelo perché vale. No, mi sa che non l'ho visto. Mi sa che non l'ho visto. Quando è uscito? Il 29 settembre, non sono proprio perso. È molto carino, cercalo perché vale veramente la pena. Sì, sta su Prime, non lo sono perso. Niente di che, però l'idea è figa. Peccato che non. Non c'è è Morgan Freeman, vedo. Sì, c'è Morgan Freeman. Peccato che non viene approfondita come dovrebbe, perché l'idea è molto figa. Vabbè, detto questo, non so se hai altro da aggiungere. Altri films? No. Niente. Allora ti dico che costa 330 euro circa, ma ha anche il se ti vedi tutto, io non voglio CD, DVD, io voglio solo c'hai DVD. Anche il missaggio in Dolby Atmos. Il vinile normale non ce l'ha. Esisterà sicuramente solo il vinile normale. Oh, questo io voglio. Io ho trovato 22. Guarda su Amazon, ho trovato 22 euro. Ma non posso pre-ordinare, guardare, non c'ho mica tre mani. Vabbè, da preordinare, quindi è lui, esce il 13 ottobre. Allora sarà lui, sarà lui. Ah, mi chiedono, verrai alla festa della radio il 14 con la signora? Aspetta. Ce l'ha sabato prossimo. Ce l'ha bambinaia? Sì. Perché no? Una levatrice. Allora, festa radio, dove si tiene questa festa della radio? Al Glitch, al Palazzo Madama, no, al Palasport. Siamo in tanti, quindi abbiamo bisogno di spazio. Al Glitch, che è un bel localetto che inaugura credo stasera o domani sera, e ci facciamo questa festa. L'ingresso è gratuito, se vuoi c'è da mangiare, si mangia un po' di street food, si beve buona birra, insomma. Dove sta? Sicuro lontanissimo da casa mia, sicuro. Pigneto. Fuori dal Pigneto, però, e non dentro, fuori sulla via Stefano Colonna. È carino, dai, sabato sera falla uscire, certo. Però ragazza, sempre chiusa dentro, no, casa. Non è venuto da solo, perché lei vuole si mette paura a essere la gente, ecco. Vabbè, Gabriele, ti saluto e ci sentiamo prossima settimana. Dai. Un abbraccio, ciao.